Effetto Mondo. Eccoci qua, buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, andiamo subito sui giornali, vediamo sì. un po'. Perché io ho fatto un overdose, devo dire, confesso, perché ieri sono arrivata a casa di hearings al Senato. Ti stai ascoltando tutte le audizioni per l'impeachment? Perché, beh, comunque è una cosa molto interessante. Guarda, ho acceso la televisione, ero sintonizzata su 24, su France 24, sì. quindi il network internazionale All News in inglese. Avevano la diretta ieri quando sono arrivata a casa alle 8. Poi mi sono spostata sulla CNN, su Fox, insomma, ero molto curiosa. Qualcuno dirà, ma è tutto un rito inutile perché sappiamo già il risultato finale al Senato, a maggioranza repubblicana, quello che volete. Però la democrazia vive anche di questi riti. E comunque le conseguenze ci saranno. Assolutamente. Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, tutti aprono con le foto del Senato, che probabilmente avrete visto, non è un'aula enorme, perché come diciamo sempre sono 100 i senatori americani, non tanti come i nostri. E ieri ho sentito, e adesso ne sentiremo una parte, sono intervenuti tutti gli avvocati principali, quindi l'impeachment manager, perché c'è addirittura un impeachment manager che è un democratico che si chiama Adam Schiff, e soprattutto due dei mega avvocati di Trump. Uno si chiama Pat Cipollone, dovremmo chiamarlo Big Onion, ma lui non lo sa, forse che cipollone vuol dire grande cipolla. Comunque uno notissimo, poi un altro suo avvocato, Jan Sekulov, e poi è intervenuto Adam Schiff. Volevo farvi sentire questi brani, perché da quello che ho capito sarà sicuramente una discussione molto lunga, anche con tantissimi aspetti in punta di diritto, però ascoltate i toni civilissimi, sarà che se si alzano o protestano rischiano la galera, però questo è un fatto. Sentite anche Cipollone, vogliamo sentire? Sentiamo Cipollone. Proprio lui, vai. Overwhelming evidence to impeach the president of the United States, and then they come here on the first day and they say, you know what, we need some more evidence. Ecco, credo che sia anche il tentativo, sia soprattutto da parte degli avvocati di Trump, di parlare un linguaggio che, se mai qualcuno degli americani veramente si appassionasse, si sintonizzasse, potrebbe capire. E quindi qui, per esempio, dice, alla fine quello che ci chiedono è di portare nuove prove, di far testimoniare Bolton. Chi ha seguito la vicenda sa che invece in Senato i senatori dicono, noi vogliamo votare su questa vicenda, non vogliamo sentire più niente, non vogliamo più prove. E quindi il suo avvocato dice, come da una parte ci dicono che le prove sono schiaccianti e dall'altra ce ne chiedono altre, c'è qualcosa che non va. E interviene poi, sempre provando a smontare le accuse, l'altro avvocato, Jan Sekulov. Questo è un signore, veramente un armadio di avvocati. Imponente, sentiamolo. Why are we here? Are we here because of a phone call? Perché siamo qui? Per via della famosa telefonata col presidente dell'Ucraina? E qui è una tesi che davvero suona familiare a noi, perché subito dopo dice, no, noi siamo qui perché dal momento in cui Donald Trump si è insediato nella Casa Bianca, cioè a gennaio del 2013, i democratici hanno cercato di impedirgli di restare lì. Quindi è la teoria, appunto. Beh, sono gli americani di spostare l'attenzione. Esatto, sono gli americani a poter tecniche. Scegliere il presidente e non i magistrati o i deputati della Camera. E sentiamo infine Adam Schiff, che era l'impeachment manager, è intervenuto all'inizio, ha parlato per 57 minuti. Cosa fa l'impeachment manager, scusa? Gestisce tutti gli interventi, e infatti è l'unico che può anche proiettare dei piccoli video, lo ha fatto. Ma sentiamo cosa ha controrisposto ai due super avvocati di Trump. President Obama withheld aid to Egypt. E qui siccome gli avvocati avevano detto e basta con questa storia di aver trattenuto gli aiuti all'Ucraina, lo hanno fatto anche altri presidenti, e Adam Schiff dice è vero, per esempio Obama a un certo punto vietò gli aiuti all'Egitto che erano già stati previsti, ma lo fece consultando il Congresso, lo fece perché in Egitto c'era una situazione che andava in qualche modo sanzionata politicamente. Qui è tutto diverso, quindi è proprio un rispondere punto su punto, in cui i democratici mi sembrano più razionali degli avvocati di Trump, che invece cercano, come avete sentito, di toccare la cosiddetta pancia degli americani. Allora Giulia, facciamo un esercizio di autocritica, direi. Come, qui adesso di cosa stai parlando? Sto parlando del virus cinese. Cosa c'è sulla stampa internazionale? Perché molti ascoltatori scrivono dicendo state esagerando con questi allarmi, se ne parla troppo, sono 9 casi, 400 casi, 9 morti su 1,5 miliardi di cinesi, eccetera eccetera. Siamo solo noi a occuparcene. No, guarda, sulla prima pagina di New York Times, Wall Street Journal, giornali tedeschi, giornali spagnoli, ci sono queste foto scattate all'aeroporto con i cinesi con le loro mascherine. Per molti giorni questa vicenda è passata sotto silenzio sui media cinesi. Siccome sappiamo che è una svolta rispetto alla crisi della SARS, dove si cercò di negare o comunque di non dare informazioni, oggi il China Daily, sono abbastanza sorpresa, prima pagina, all out efforts ordered to curb spread of virus, cioè sono stati ordinati dei massimi sforzi per tagliare la diffusione, il contagio da virus. Poi subito sotto però c'è l'intervista a un super expert, un top expert viene definito, che dice: no, ma non preoccupatevi, non sarà assolutamente come la SARS. Quindi da un certo punto di vista la novità è che abbiamo molte più informazioni in tempo reale di quanto successe con l'epidemia di SARS. Quanto però questo virus sia pericoloso o si possa curare una volta avvenuto il contagio, su questo i top experts non sono tutti d'accordo. Allora andiamo invece sui giornali europei, che abbiamo fin qua trascurato. A dove vogliamo cominciare? Gran Bretagna? Ma sì, in Gran Bretagna, come su tantissimi altri giornali europei, più che per l'impeachment di Trump si parla come l'antagonista di Greta. L'Independent per esempio mette proprio i due visi a confronto. In effetti ieri erano nello stesso luogo a Davos, e quindi il titolo dell'Independent: la tua inazione, la tua incapacità di fare delle cose concrete alimenta il fuoco, Greta dice a Trump. E invece AI, che è questo giornale gratuito di Londra, molto fatto molto bene, però dice: ecco il numero uno dei climate change denier, cioè dei negazionisti del cambiamento climatico. Fa molto parlare questo intervento di Trump, che secondo me, spiazzando tutti come sa fare solo lui, ha rivoltato un po' la vicenda, sostanzialmente dicendo: è difficile fare previsioni, le risorse dell'economia, come dimostra la nostra, sono infinite, quindi smettetela di fare i pessimisti cosmici. Assolutamente, ha rivoltato la frittata, stavi per dire. Sì, verità, perché... sì, cioè io credo che No, ha avuto coraggio, perché in effetti presentarsi a Davos dopo Greta e dire, rivendicare i successi dell'America, uno dice: ma che c'entra, stiamo parlando in un... Tra l'altro anche intestandosi un po' questo piano di piantare un trilione, cioè 1.000 miliardi di alberi, sottoscritto e supportato dall'inventore di Davos, che quest'anno compie 50 sì. anni, che è dedicato alla sostenibilità. Insomma, è una sfida, come sempre quella di Trump. Io su una cosa però mi sento di, come forse un po' sorpresa, di dargli ragione. Le risorse anche del nostro pianeta, questo corpo vivente che conosciamo così poco e maltrattiamo così tanto, in realtà probabilmente è vero, sono infinite. Io ho visto delle foto dove nella foresta amazzonica stanno già rispuntando le foglie, gli alberi, il verde. Che bello, questa immagine, cioè... guarda. Però insomma, che negare, appunto, fare il negazionista, no, questo ovviamente non posso sottoscrivere. Giulia, grazie, ci risentiamo domani con te. Naturalmente è tutto per questa puntata di Effetto Giorno, con Jacopo De Franchi in redazione e Filippo Aureggi in regia. Ad Alessio Maurizi, l'auguro di una buona giornata. Ci sentiamo tra poco con gli aggiornamenti delle 14.